Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.08, in regia la parte tecnica abbiamo Peter Bescapè, come sempre Laura Vanossi in redazione. Andiamo subito a sentire i temi del nostro sommario e intanto vi dico che se volete intervenire già sin d'ora 824 0024, questo è il nostro numero verde, e i messaggi al 349 238 6666. Sommario. Con lo sport chiudo o forse ci ripenso? Parliamone insieme. Arance per fare il pieno di salute e per aiutare la ricerca. Non perdere l'occasione. Gli uomini sognano e le donne hanno gli incubi. Lo dice una ricerca inglese. Sono satura, non provo più piacere a nuotare, voglio riposare, viaggiare e rilassarmi senza pensare agli allenamenti. Con queste parole la nuotatrice francese Manadou ha annunciato che per il 2009 si prenderà una pausa, una scelta sulla quale oggi vogliamo riflettere, perché se è vero, come abbiamo detto tante volte, che lo sport va bene, ci dà tanto, molte volte, soprattutto a livelli agonistici, crea delle pressioni tali che poi sono alla fine difficili da gestire. Questo però può capitare anche a chi non è un atleta 5 stelle, ma anche a chi pratica sport a livello amatoriale. Può arrivare il momento in cui, per una serie di ragioni che andremo oggi a esplorare insieme al vostro aiuto e con le vostre telefonate, si decide di smettere, di buttare la spugna. Magari è capitato anche a voi, magari ci state pensando, lo sport non vi dà più quello che vi ha dato finora. Oppure però ci sono anche persone che smettono e poi riprendono. In studio qua con me, come sempre, al venerdì il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Dottor Confalonieri, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Allora, noi oggi vorremmo parlare con lei, come sempre, dell'importanza di praticare attività sportiva nel modo giusto, nel modo corretto, ma soprattutto vogliamo rivolgerci ai nostri amici da casa, ai nostri ascoltatori che stanno vivendo un momento, diciamo così, un po' di crisi. Abbiamo detto che lo sport è un'attività che appassiona, a volte un po' come in una storia d'amore, qualche cosa si rompe. Allora, in questi casi bisogna fare un po' un esame di coscienza, vedere che cosa sta succedendo e se è il caso di dare un taglio. Sì, hai detto molto bene. Direi questa immagine, lo sport come una storia d'amore, a un certo punto non funziona più. E qua c'è un problema fondamentale, cioè quanto spazio occupa lo sport nella nostra vita? Come dire, quanto spazio occupa questa storia d'amore nella nostra vita, nel nostro bilancio che ogni sera o ogni mattina al risveglio facciamo? Perché questo può riguardare appunto l'atleta ad altissimo livello come Laure Manadou, che di colpo si trova in un ruolo diverso da quello che aveva sempre recitato, ma può riguardare anche tutti gli sportivi amatoriali che affidano allo sport un ruolo fondamentale. Quindi direi proprio ai nostri ascoltatori, lo sport per voi è fondamentale e occupa uno spazio importante e non vi soddisfa più? Oppure non avete raggiunto o ritenete di non poter raggiungere gli obiettivi che vi eravate posti, certo, attraverso la vostra pratica sportiva? Oppure ancora, sono insorti problemi di salute, dolori, sovraccarichi che vi impediscono di fare sport come lo facevate? Ecco, questi sono tre scenari, poi ce ne sono molti altri. Vorremmo proprio sentire oggi gli ascoltatori perché ci raccontassero eventualmente le caratteristiche della crisi che hanno nel loro rapporto con lo sport. E vogliamo anche come l'hanno affrontata, come pensano di superarla, eventualmente se l'hanno superata e hanno ricominciato. Ecco, questo mi interessa molto. Vediamo come hanno superato questo momento di difficoltà. Magari nascono nuove passioni, nuovi, esatto, amori. Ma noi esploreremo tutti questi scenari insieme anche alla professoressa Gladys Bunus, psicologa dello sport, docente universitaria e responsabile della formazione all'unità operativa in psicologia dello sport a Torino. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Professoressa, lei, oggi affideremo le emozioni, le pressioni psicologiche di chi fa sport, perché se è vero che c'è la paura di perdere, anche la paura di vincere a volte può giocare brutti scherzi? assolutamente vero, tanto che possono essere un po' considerate entrambe la sfaccettatura della stessa medaglia, quindi hanno una base comune che è poi proprio la paura, da una parte quella di non riuscire a raggiungere gli obiettivi e dall'altra quella di non riuscire a mantenere il livello raggiunto. In entrambi i casi c'è un'emozione di fondo che va imparata, va gestita. Ecco, guardi che noi contiamo su di lei per imparare un po' a gestirla. Allora, arrivano già i messaggi al 349-238-6666. Voglio leggervi subito uno che mi sembra che riprenda un po' il discorso sport, passione, amore. La persona deve avere più interessi, come in amore. Amare una persona va bene, ma non si può dipendere da lei. Dottor Confalonieri, lei è d'accordo? Mi sembra giustissimo questo messaggio, nel senso che l'equilibrio è fondamentale. Non a caso, nella gestione degli atleti di alto livello, uno dei trucchi e uno dei segreti è creare sempre degli spazi alternativi allo sport agonistico, che siano lo studio, che siano una passione, che siano un hobby. Perché l'atleta di altissimo livello che ha un'alternativa alla pratica sportiva gestisce molto meglio la sua attività dell'atleta di alto livello che ha soltanto lo sport. Quindi l'indicazione del nostro ascoltatore è perfetta, perché è un'indicazione in funzione dell'equilibrio nelle varie cose sulle quali poi fondiamo la nostra esistenza. Insomma, dire addio alla competizione io credo che sia un momento molto difficile per un atleta, una scelta presa dopo molti ripensamenti e dubbi, insomma, non nasce dall'oggi al domani. In linea con noi abbiamo Cristian Ghedina, campione di sci che si è ritirato nel 2006. Ciao Cristian. Ciao, buongiorno a tutti. Sono molto contenta di averti in linea. Anche io sono contento di... ho ascoltato un po'. Senti, quello che avete detto adesso, è proprio veramente molto interessante, mi ci vedo molto in tutto questo contesto di discorso che avete fatto. Quindi dici che i nostri esperti hanno detto delle cose sagge, vere? Hanno detto sì, sicuramente delle cose vere, delle cose che rispecchiano proprio quello che è anche la mia persona. In effetti io mi sono ritirato nel 2006 e vabbè, lo sport io penso che sia proprio scuola di vita. Questo, lo sport insegna a capire che poi per ottenere qualche cosa nella vita devi lottare e devi guadagnartelo con dei sacrifici, perché non viene lo sport agonistico. Non regala nulla, vero? Non regala nulla, fatto ad alto livello, insomma. Perché per fare lo sport fa bene, ti tiene in forma, è salutare. Poi però per farlo ad alti livelli, insomma, per ottenere qualche cosa ti fa capire che se tu lo fai solo per fare non ottieni sicuramente risultato. E per me è una grande scuola di vita lo sport, perché lo fai all'inizio quando lo fai da bambino, la competizione, la sfida di corsa con l'amico, il compagno di scuola, la partita a calcio, tutte queste cose qua, poi man mano che vai avanti nel tempo ti insegnano a capire che per ottenere risultato, per vincere, arrivare davanti al tuo avversario, devi avere qualche numero in più e devi metterci del tuo. Cristian, quanto è stato difficile per te smettere? Adesso come stai? Io adesso fortunatamente ho smesso nel 2006, però sono riuscito a trovare un'altra passione sportiva che è l'automobilismo, e adesso corro un po' in macchina e quindi un po' mi sono nascosto dietro, cioè ho cercato di trovare un qualche cosa perché che mi desse le stesse soddisfazioni o insomma abbastanza vicino alle sensazioni che avevano lo sci, perché per me lo sci è stato tutto. Però sono arrivato ad un certo punto che ho fatto un po' delle valutazioni. La valutazione principale è stata proprio il fatto che avevo grossi problemi ad allenarmi, perché il fisico era abbastanza amatoriato, tra le botte, tra i carichi di lavoro. Senti, non riuscivo più a Cristian, voglio leggerti un sms di Eros che ci ha scritto: ho dovuto prendere una porta da gigante in piena faccia per capire che la mia giornata di sci era diventata molto più stressante di un lavoro. Dottor Confalonieri, lei voleva intervenire? Sì, ha detto due cose fondamentali secondo me, Cristian. La prima, ha evidenziato l'emozione dello sport, che è un'emozione tipica, perché è l'emozione del mettersi in gioco. Cioè chi fa sport e chi lo fa a livello agonistico si mette in gioco, si espone al risultato e al giudizio degli altri, che è di importanza fondamentale, ci aiuta a crescere ma è estremamente stressante, ci crea delle emozioni irripetibili, per cui spesso gli sportivi poi si mettono in gioco in un'altra attività, come ha fatto Cristian. Vedi l'automobilismo per Cristian. Però è qualcosa di irrinunciabile ma di estremamente difficile da gestire, E poi ha evidenziato, anche se collateralmente, un altro aspetto: spesso abbandoniamo perché il fisico non ci consente più di fare quello che facevamo. E questo credo sia un'esperienza comune anche a molti dei nostri ascoltatori, sui quali vorremmo sentirli. Professoressa Bunus, cosa le suggerisce il racconto di Christian? Beh, il racconto di Christian è un racconto che molti sportivi hanno, sicuramente persone come Christian, che sono dotate di quella che viene chiamata intelligenza agonistica, quindi proprio il piacere della sfida, della competizione con se stessi e anche poi con gli altri, hanno bisogno comunque di riprovare queste sensazioni, come diceva anche il dottor Confalonieri. Quindi il cercare passioni alternative diventa fondamentale anche dopo il termine della pratica agonistica, non potrebbero farne a meno, quindi è un modo comunque sano di soddisfare una ricerca naturale che tutti gli esseri umani hanno. Christian, il dottor Confalonieri non vorrebbe più lasciarti andare via, lo so che lui è un tuo fan sperticato. Sì, perché ha saputo trasmettere la gioia di fare sport e di gestire la vittoria e la sconfitta in modo positivo, che è un messaggio estremamente importante, soprattutto per quei bambini, quello che diceva anche la psicologa, che noi dobbiamo educare al mettersi in gioco attraverso lo sport, che è un aspetto fondamentale. L'agonismo è dentro ognuno di noi, non dobbiamo reprimerlo, dobbiamo educare il bambino e poi l'atleta e poi l'adulto a gestirlo con intelligenza. E su questo su questo tema, su questo versante, Christian è stato un grande testimonial. Lei non ha letto, non si è lasciato suggerire questo commento dal nostro ascoltatore, no, che scrive: non li posso leggere. Infatti, e non dimentichiamo il ruolo che svolgono i genitori nel far nascere la passione anziché la dipendenza da sport nei figli. Christian, ci sono anche dei messaggi di tue ammiratrici che dicono che, oltre essere bravo, sei anche bello, ma questo, voglio dire, tu lo sai, lo sappiamo tutti, e vabbè, comunque fa sempre piacere, Christian. Sì. Senti Christian, grazie per essere stato con noi, un abbraccio. Grazie, un abbraccio e niente, insomma, ci si risentirà più in avanti. Ma volentieri. Mi ha fatto piacere anche a me essere con voi e ascoltare questo dibattito, insomma, ascoltare varie opinioni. Grazie mille Christian, ci sentiamo presto. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata. Buona giornata anche a te. Ma a volte la passione è grande, insomma, si vive un momento di crisi e poi ci si ripensa. Allora, in linea con noi abbiamo una persona, un atleta, che può raccontarci come succede questo. Abbiamo in linea con noi Michele Bartoli. Ciao Michele. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, tu stai pensando di tornare al mondo delle due ruote? Ma sì, diciamo... Ma stai accarezzando l'idea? Sì, ecco, esatto, sto veramente accarezzando l'idea, diciamo così, che lo sport è un po' come, può essere come una macchina del tempo, no? Che ti porta indietro negli anni. Per me, se questo progetto va in porto, è un po' come tornare indietro di 4 anni. Chiaramente è una sfida con me stesso, una sfida anche un po' bizzarra, però la passione, l'amore per questo sport si porta a fare anche queste considerazioni. Chiaro, non è già tutto deciso e tutto fatto, però diciamo lì che ci sto pensando profondamente, affiancato anche questo mio pensiero a un progetto futuro di costruire una nuova squadra ciclistica, insomma ci sono un po' di cose in ballo che comunque a giorni si decideranno. Quindi scusami Michele, ma qual è la cosa, l'aspetto, l'emozione che ti spinge a tentare questa che tu hai definito una grande sfida, e che cosa ancora ti trattiene, tanto che tu dici sto accarezzando l'idea, insomma sei lì, c'è evidentemente sì, qualcosa che ti spinge e qualcosa che ti tira indietro. Sì, è un po' di indecisione, un po' di paura c'è comunque, perché per me rimettermi in gioco significa tanto, mettersi anche al giudizio nuovamente delle persone dopo aver trovato un equilibrio di vita comunque solido ora. Chiaro che diventa anche un po' difficile e ti fa pensare, è giusto anche pensarci a queste cose. Quindi è chiaro, se vado dietro all'istinto, dietro all'amore anche per la sfida, per la competizione che ho, avrei già detto di sì, sì, però è chiaro che bisogna riflettere bene ed è importante anche il progetto che sto portando avanti, insomma. Allora, chiedo ai miei due esperti, Michele, noi abbiamo il dottor Franco Confalonieri che è medico sportivo, la professoressa Gladys Bonus a cui affidiamo invece la parte più emotiva, la pressione psicologica, se vogliono approfittare della tua presenza per magari aggiungere, no, per cogliere un aspetto che può essere anche utile per i nostri ascoltatori da casa. Professoressa Bonus. Sì, beh, sicuramente il rimettersi in gioco e come giustamente sottolineate c'è una parte che spinge, che ha voglia di riprovare di nuovo, e c'è poi magari anche delle paure, un freno. Sicuramente è molto importante saper ridefinire bene gli obiettivi, proprio per evitare magari di porsi degli obiettivi eccessivamente elevati. Sì. E questo poi diventa frustrante, per cui una delle primissime cause di abbandono della pratica sportiva è proprio la perdita di piacere e divertimento. Quindi rimettersi in gioco col piacere di farlo, come se potesse tornare indietro e ritornare a giocare. Questo infatti è... Michele diceva un po' una macchina del tempo. Dottor, esatto. Confalonieri, invece? Ma io vorrei dire, io ho intravisto la razionalità dietro la scelta di Bartoli, cioè mi rimetto in gioco il momento che c'è un progetto, c'è una squadra, c'è degli atleti da aiutare a crescere, e quindi ci sono dei contorni definiti e razionali che mi consentono di rimettermi in gioco, e questo è perfetto. Però al di là di questo, quello che vorrei chiedergli è non è che in questi anni in cui non c'è stato più il ciclismo è mancata quell'emozione, quell'adrenalina, quegli ormoni che vengono appunto dal mettersi in gioco, dal competere, dal vivere l'emozione sportiva, e che non sono sostituibili con quasi nulla nella vita? Michele. Esatto, la riflessione è una considerazione pienamente azzeccata, voglio dire. È chiaro che c'è il lato razionale che ti fa pensare a un progetto, a uno scopo concreto, ecco. Poi c'è il lato emozionale che quello difficilmente si riproduce nella vita di tutti i giorni, come certo. Diceva il professore, l'adrenalina che giornalmente noi mettevamo nelle nostre vene, questo ti manca. È chiaro che nella vita bisogna sempre trovare dei piaceri, e per me personalmente la famiglia è una cosa che mi ha aiutato negli anni è stata importantissima, però diciamo l'emozione così sportiva della competizione, io penso a uno sportivo che ha fatto il suo lavoro con amore, gli manca tanto. Senti Michele, lasciamoci così, io sono certa che tu prenderai la decisione migliore. Appena la prendi ci chiami, noi andiamo in onda ogni giorno dalle 11 a mezzogiorno e andiamo. Va bene. Mi farebbe piacere di parlarne con voi, sicuro. Volentieri. E allora poi noi festeggeremo. Una buona giornata, Michele Bartoli. Grazie per essere stato con noi. Voi, grazie. Ciao, saluto a tutti. Allora, se siete lì, se avete smesso, se vi manca qualcosa, o se invece avete smesso e state pensando di ricominciare, o l'avete già fatto, 824 0024, questo è il nostro numero verde. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Sì, una mela al giorno, ma anche un'arancia al giorno per la nostra salute e per quella della ricerca, che ha bisogno proprio come noi di essere nutrita. La ricerca ha bisogno di essere nutrita dalle nostre offerte. Allora, niente di più semplice. Domani ci facciamo un giretto fuori, ci fermiamo in una delle 2000 piazze in cui sono in vendita le arance della salute, ne portiamo a casa una reticella da 3 kg, facciamo scorta di vitamine per noi e la nostra famiglia e aiutiamo l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro a finanziare i progetti di ricerca. Tutto questo è magnifico e ne parliamo col dottor Carlo Gargiulo, medico di Elisir. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, effettivamente facciamo il pieno di salute con questi 3 kg di arance, ma troviamo anche un interessante volumetto che ci serve per guidarci nella prevenzione in cucina, per far capire che prevenire il cancro attraverso l'alimentazione si può fare anche senza sacrifici, anzi mangiando in modo gustoso, come mostrano le ricette della cucina italiana che si trovano in questo libretto. È ancora interessantissimo che finalmente i ricercatori cominciano a darci delle indicazioni precise. Siamo quello che mangiamo, ma finalmente abbiamo la dimostrazione. Il nostro sistema immunitario, il nostro assetto genetico vengono influenzati dall'alimentazione, influenzati in modo positivo se siamo virtuosi, influenzati in modo negativo se mangiamo troppi grassi e se la nostra circonferenza addominale diventa troppo grande. Dottor Gargiulo, allora, piccole, semplici regole di prevenzione da rispettare tutti i giorni senza rinunciare ad una dieta stuzzicante e varia. Esattamente, come si vede dalle fotografie che ci sono in questo volumetto, questi piatti appetitosi saziano sia l'occhio e saziano anche la nostra gola, e questo riesce a inserirsi in un concetto di dieta molto più ampio: un po' di attività fisica, un'alimentazione sana, un'alimentazione mediterranea, soprattutto quella che è consona ai nostri climi. Dottor Gargiulo, tenendo conto che noi siamo fortunati, i prodotti italiani sono buoni, ricchi di vitamine, ne abbiamo una grande varietà che varia da stagione a stagione, basta approfittarne. Esattamente, non sempre ce ne rendiamo conto. Un pane in particolare, abbiamo un'isola come la Sicilia che ci fornisce queste arance, nella cui buccia c'è addirittura una sostanza che serve a fare quella che si chiama chemioprevenzione, cioè a prevenire attraverso una sostanza chimica il rischio del tumore. Beh, insomma, approfittiamone, sicuramente dobbiamo approfittarne il più che possiamo. Allora, dottor Gargiulo, appuntamento a domani, 31 gennaio, 2000 sono le piazze che hanno aderito a questa iniziativa. L'elenco delle piazze si trova sul sito www.airc.it oppure telefonando al numero 840-001-001. Dottore, allora buongiorno e grazie, ci sentiamo presto. Certamente, Nicoletta, sempre con molto piacere. Un saluto agli ascoltatori. Buona giornata a lei. Pronto soccorso. Con lo sport chiudo o forse ci ripenso? 824 0024, questo è il tema della nostra puntata. Se volete raccontarci la vostra storia, avete bisogno di un suggerimento, di un consiglio dai nostri esperti, chiamateci o scriveteci al 349 238 6666. Eccoci, siamo tornati insieme al dottor Franco Confalonieri e alla professoressa Gladys Bunus. Stiamo parlando di sport, quando insomma qualche cosa si rompe. Sicuramente, per fare un'estrema sintesi, ma aggiungete poi i vostri dettagli, lo sport si alimenta di passione, perché lo sport ci regala delle emozioni uniche. Ma affinché questa relazione continui, bisogna porsi degli obiettivi ragionevoli e raggiungibili. Quindi, volendo dare due parole chiave di questa seconda parte di trasmissione che abbiamo strappato anche dalle interviste dei nostri atleti, cosa mettiamo? Emozioni ed obiettivi. Siete d'accordo? Assolutamente d'accordo, mi sembra una sintesi perfetta. Professoressa, vuole aggiungere un altro aspetto? Penso che abbia centrato gli obiettivi, le due parole chiave. Insomma. Per questa volta è andata. 824 0024, mi sono molto esposta. Giulio da Pistoia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi volevo riallacciare con le parole che aveva detto proprio lei, signora, all'inizio della trasmissione. Anche chi non è un atleta agonista può avere dei periodi in cui è stanco, è stufo, sì. Poi ecco, infatti io sono un podista a livello amatoriale, sono 14 anni che corro e nei primi 7-8 anni ho fatto parecchie gare competitive, maratonine, maratone, e dopo diciamo è cominciata un pochino la parabola discendente. Ho approfittato per limitare anche un po' allenamenti, giusto anche per non perdere lo stimolo, no? Certo. Ecco. E purtroppo ultimamente invece, per motivi di lavoro, di famiglia eccetera, sono costretto a ritagliare proprio del tempo per mettere le scarpette ai piedi e poter correre, perché oltre insomma la passione, obiettivi, benefici anche psicofisici che può dare in questo caso la corsa, è anche un motivo per, benché sia uno sport individuale, magari quando si fanno le gare nel dopo corsa eccetera, anche per socializzare, no? Per fare, credo sia molto importante. Quindi Giulio, un momento di crisi, adesso c'è un po' in qualche modo sta riprendendo i contatti. Dottor Confalonieri e professoressa Bunus. Dottor Confalonieri, ma è ancora in linea Giulio? Giulio, sì, sei ancora in linea. Giulio, lei è capace di nuotare? Nuotare? No, io ho molta paura dell'acqua, ho veramente paura di nuotare. Ci ho provato, devo essere sincero. Allora, ho il mio provato, consiglio è... Non ce la faccio. Ok, allora, non potendo nuotare, il mio consiglio è provi con il duathlon, ciclismo più corsa. Anche se a poco tempo, inizi con uno sport nuovo. Là, qualsiasi risultato sarà un risultato importante perché siamo agli inizi. Alternerà l'allenamento a piedi con l'allenamento in bicicletta. Avrà degli obiettivi che sono raggiungibili e probabilmente ritroverà le emozioni. Se sapeva nuotare, l'avrei consigliato il triathlon. Beh, purtroppo questo non lo possiamo fare. Va bene, però Giulio può sempre imparare. Piano piano ce lo teniamo come obiettivo a medio media scadenza. Giulio, ci faccia sapere. Va bene, arrivederci. Andiamo a Roberto, ci chiama da Pavia. Buongiorno Roberto. Sì, buongiorno. Ecco, io volevo proprio intervenire, come ha detto adesso il dottor Confalonieri, su questo discorso qua, perché diversificare l'attività è fondamentale. Io sono allenatore di uno sport di squadra da più di 20 anni, ho allenato dai bambini di 5 anni fino agli adulti a buon livello, senza eccellere eccessivamente. E devo dire che quando si arriva all'età dell'abbandono, può anche essere, parliamo di età giovanile per mille motivi, come può essere nell'età adulta perché mancano gli stimoli. Ho notato che quando diversificavo le attività, come possono essere gli allenamenti, ma proprio la tipologia, ad esempio sport come faceva il signor Giulio, praticamente aerobico, diversificare l'attività aerobica. Sì. In questa maniera qua si ritrovavano degli stimoli interni che poi, per esempio nel mio caso sport di squadra, si trasmettevano anche al resto dei compagni. Facevano un po' anche da traino, diversificando. Esattamente, questo al di là dell'abilità, cioè quello chiaramente più abile, quello meno abile, ma è proprio una questione, come dicevate voi prima, di stimoli mentali che portano il risultato. Ma tutto questo va fatto con molta serenità, senza la ricerca eccessiva di ritornare a quello che c'era prima. A volte proprio la serenità è quello che manca. Io parlo così perché la vostra è una bella trasmissione che si rivolge soprattutto alle tante persone. Mi viene in mente la signora che fa la palestra, no? Che può perdere la passione perché si stufa, benissimo, passeggiata con le amiche che ha trovato in palestra, la biciclettata, e vede che già si può ritrovare questa passione, questa voglia di mi sembra Roberto un'ottima ricetta, e penso che sia d'accordo anche la nostra professoressa Bonus. Sì, anche perché rilacciandomi appunto a quello che stava dicendo Roberto, sicuramente la prima causa di abbandono della pratica sportiva è proprio la mancanza di divertimento. La seconda causa però è, dagli studi che sono stati fatti, viene identificato come il non sentirsi bravi o il non sentirsi più capace a raggiungere determinati obiettivi. Quindi la diversificazione dell'attività sportiva serve anche per potersi dare dei nuovi obiettivi e magari scoprire delle capacità che nell'altra disciplina sportiva non si credeva di avere. Quindi serve per far tornare di nuovo la passione, ma anche magari per cimentarsi con abilità nuove e scoprirsi capaci di fare qualche cosa di diverso. E io credo che questo possa essere una buona indicazione per i genitori di adolescenti che spesso, l'abbiamo sottolineato più volte, attraversano un'età in cui buttano facilmente la spugna, forse perché lo sport che stanno facendo magari non interessa più, non è più comodo, non sono più accompagnati, cambiano gli amici, e invece durante proprio la fase dell'adolescenza un fisico in crescita avrebbe bisogno di questa stampellina. Dottor Confalonieri. Ma sì, direi di sì, direi che noi siamo partiti da un paragone tra la relazione sentimentale e la relazione con lo sport. Un grande vantaggio che offre lo sport rispetto alla relazione sentimentale è quella che si può cambiare e diversificare, cosa che nei sentimenti è obiettivamente molto più complesso. È vero, quando lei iniziava a dire un altro sport sembrava quasi l'amante. Esatto, invece no, qui possiamo cambiare l'amante, certo, qua, senza tanti nessun amanti. Problema, anzi consigliamo di farlo. Anzi, la moglie, non è un particolare, il partner ci guadagna in esatto. questo caso. Esatto, e comunque tornando agli adolescenti sono assolutamente d'accordo. Nel senso che per il bambino è importante fare diverse attività, cioè avere un approccio multidisciplinare. Per l'adolescente è importante essere pronto nel momento in cui non si raggiungono più stimoli adeguati o non si hanno più stimoli adeguati attraverso un'attività, sceglierne un'altra dove almeno inizialmente i ritorni e le gratificazioni saranno sicuramente maggiori. Andiamo a Massa Carrara e andiamo a trovare Francesco, 824-0024. Francesco, benvenuto, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ospiti, al dottore e alla professoressa. Io sono insomma un po' più di 40 anni, 44, Io ho cominciato precocissimo, i miei mi hanno messo in un campo da tennis a 6 anni praticamente. E, diciamo, il tennis è stato il primo sport insieme al pallone, poi ne ho fatti tanti altri. Sì. E diciamo che diventando più adulto ho dovuto un po' sistematizzare quello che facevo e ridurre a quello che mi interessava di più, soprattutto per una questione di tempi e anche di necessità personali. Quindi sono andato verso il jogging, che ho fatto per molti anni, anche a un buon livello, e poi dopo però per una questione, diciamo, di peso che è cambiato, non nel senso che sono diventato grasso, ma sono diventato più come dire, più robusto, andando in là quegli anni mi dava un po' fastidio e ho cominciato verso 36 così la bicicletta, diciamo. Quindi ha diversificato, Francesco, ma la sua grande passione qual è di tutti questi? Perché poi ne rimane una. E si scelgono anche altri per alimentare questa passione primaria. Mi sembra di aver capito così dalle indicazioni dei nostri atleti, anche dai messaggi, da quanto diceva il dottor Gonfalonieri. È successo anche lei. Lei di che cosa, di quale sport è innamorato? Allora, sono innamorato dello sport, ma non tanto per quello che, diciamo, riesco a ottenere come prestazione, ma per quello che mi rilascia come diciamo, condizione fisica. Per cui tutte le volte che ho cambiato l'ho fatto perché non mi sentivo più bene, non perché non mi piacesse più quello che facevo. E ha trovato sempre nuove emozioni, insomma, queste emozioni uniche e irripetibili. Grazie Francesco, andiamo. Grazie a lei, buona giornata. Va che inizia a far più bello, ci scrive un ascoltatore. Si stava fuori più volentieri, tra poco è tempo di fare lunghe passeggiate sulla spiaggia. Non vedo l'ora, forse lo desideriamo un po' tutti. Ma, dottor Confalonieri, dopo questa apertura verso queste immagini che ci accarezzano un po' il cuore, stavo pensando, anche riferendomi alle telefonate, le trasmissioni, i giochi di squadra, l'importanza della guida, dell'allenatore. Non tutti ce l'hanno l'allenatore, ma può essere magari in alcune occasioni un po', no, la molla che fa scattare. Questo è un aspetto fondamentale, non è ancora emerso completamente, ma è importante. Noi abbiamo iniziato... L'abbiamo colto. Bravissima. Noi siamo partiti proprio per questa trasmissione dal caso eclatante di Lor Manadou, di cui tutti parlano. Lì i problemi che hanno portato poi all'abbandono sono nati proprio dalla rottura del suo rapporto con l'allenatore che l'aveva portato ai grandi risultati. Ecco, spesso nello sport agonistico, ma non solo, anche nello sport amatoriale, trovare una guida che sappia da una parte motivarci e dall'altra parte guidarci attraverso il raggiungimento di obiettivi sempre diversi ma comunque raggiungibili è di fondamentale importanza. Quindi un consiglio che possiamo dare ai nostri ascoltatori è: fatevi guidare, mettetevi in gioco attraverso lo sport, ma scegliete la guida giusta. Paola ci scrive: lo sport a 17 anni ha salvato il mio rendimento scolastico durante il divorzio dei miei, purtroppo ora a 30 anni non riesco più ad avere questa convinzione. Antonio da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, io ascoltavo anche voi così, ma forse il mio è un po' diverso. Io pensavo che magari trovare anche lo spazio per uno con lo sport assieme alla propria compagna, sì, magari può essere una cosa, perché ormai con il lavoro siamo... Pochi momenti per passare insieme, fare un'attività insieme sicuramente è una buona scelta. Antonio, il dottor Confalonieri parlava di guida, ecco, tante volte naturalmente la guida a cui si riferiva il dottor Confalonieri è tecnica, mentre però avere un compagno, il compagno con cui fare attività fisica sicuramente aiuta nella relazione. Chiediamo alla professoressa Bonus. Ma sicuramente avere una guida e poter condividere questa che abbiamo definito passione con altre persone diventa fondamentale, tant'è che un cattivo rapporto con compagni di squadra o con le persone che con noi praticano l'attività sportiva o addirittura con l'allenatore è spesso la causa dell'abbandono di molti sportivi. Il compito dell'allenatore è complessissimo, perché deve essere sia allenatore dal punto di vista tecnico ma anche un educatore se lavora con certo, è un, diciamo, è un ruolo molto importante, è fondamentale. L'abbiamo sottolineato tante volte, anche il dottor Confalonieri rimandava questa figura, ma lei come dice, cosa dice a proposito dell'idea del nostro ascoltatore? Ritagliamo uno spazio, cerchiamo un'attività fisica da fare insieme alla nostra compagna, al nostro compagno, in modo da condividere questi momenti, facciamo anche qualche cosa che aiuta, no? Sia la relazione nelle due direzioni. assolutamente. Fisicamente e mentale. Si va bene, miglioramento del benessere individuale, sicuramente un miglioramento anche del benessere della coppia, perché si condivide una passione, un divertimento, visto che il tempo viene a mancare, quindi è un buon modo per ritagliarsi degli spazi insieme. Dottor Confalonieri? Noi abbiamo parlato spesso in questa trasmissione della danza e del ballo come sport, ritengo siano fondamentali per fare qualcosa condiviso con la coppia. Non mi stancherò mai di raccomandare questo tipo di esperienza. Lei segue con i suoi consigli? O... Questo del ballo sto cominciando a seguire. Magnifico. Maurizio ci chiama da Udine. Buongiorno. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Lei fa sport con sua moglie? Non so, magari non è sposato. Ho tentato di farlo. No, io volevo fare un intervento su quella che è la voce chiave, secondo me, per riuscire a fare sport. Parlo da sport amatoriale, ovviamente, avendo impegni di lavoro e famiglia, che è l'equilibrio. Lo sport tende a generare un processo virtuoso che di fatto più lo fai più lo faresti, e diventa a volte rischia di diventare una dominante talmente importante dove necessariamente rischi di trascurare qualcos'altro, anche lavoro in primis a volte. Sì. Di conseguenza quando cerchi a volte di ritrovare questo equilibrio, perché gioco forza devi ritrovarlo, rischia di ingenerarsi la spirale inversa che ti porta poi a dimenticarlo. È molto difficile riuscire a mantenere, per chi poi ha un carattere magari emotivo, passionale, è difficilissimo riuscire a mantenere un equilibrio che ti consenta di gestirlo in maniera adeguata nel rispetto dell'altra attività. Quindi a me è successo questo. Senta Maurizio, ma lei riesce, come fa a tenersi in equilibrio? No, io non ci riesco, nel senso che sono uno che ha praticato 5-6 anni di attività, diciamo, amatoriale, con competizione amatoriale di ciclismo su strada. È un periodo bellissimo che ricordo con grande amore, però dopo gioco forza ho dovuto un po' rallentare i ritmi, ma rallentandoli ho perso quella passionalità, quella forza che mi faceva alzare la mattina, andare in bicicletta, e quindi piano piano la lontananza, dottor Confalonieri. Sì, abbiamo un piccolo trucchetto rispetto a questo, l'abbiamo detto più volte, mi sembra fondamentale, proprio per garantirci uno spazio, perché diceva benissimo il nostro ascoltatore, più lo fai più lo faresti. Allora, partiamo facendolo poco, se abbiamo a disposizione 3 giorni o 3 ore, facciamolo per un giorno o per un'ora. Ecco che abbiamo tanto spazio davanti per farlo sempre di più, proprio perché si innesca questo circolo virtuoso che però può portarci nel tempo poi ad abbandonarlo. Andiamo da Wanda, che ci chiama da Pistoia. Buongiorno Wanda. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Lei si mantiene in equilibrio? Dunque, no, purtroppo no, io no. No, io volevo soltanto portare una testimonianza di mia figlia, grande ormai, che ha fatto per tantissimi anni il nuoto. È entrata in piscina in tenerissima età, ha fatto tutto il percorso, ci si è trovata talmente bene che ha fatto la preagonistica, quindi un allenamento di 2 ore, 3 volte alla settimana, faceva le gare, insomma si è trovata talmente bene, ha vinto tanto, si è gratificata personalmente in un modo tanto totale che a 18 anni, quando diciamo il percorso è terminato, perché a 18 anni o si passa all'agonistica vera e propria oppure altrimenti cosa si sta a fare lì, non trovava più stimoli e diciamo è dovuta uscire. È dovuta uscire, questo le ha procurato un problema, Wanda. Sì, sì. Insomma, ci si sente un po', non si è né carne né pesce, dottor Confalonieri, e allora non si è praticato uno sport per tanto tempo a ritmi, ma non si hanno le caratteristiche, la forza, la passione, la preparazione per fare il grande salto. Grazie Wanda, dottor Confalonieri. E questa è stata anche la mia esperienza, a 17 anni allora ho detto va bene, non posso farlo come atleta, la stessa emozione la proverò come allenatore, e mi ha portato a fare l'allenatore per tanti anni e poi ad arrivare anche qua a parlare con chi fa sport. Questa potrebbe essere una strada, non mi realizzo attraverso lo sport praticato, mi realizzo dedicandomi agli altri che fanno sport. Allora, torneremo, mi sembra, su questo aspetto per dare dei consigli, per confrontarci. Io ringrazio molto la professoressa Gladys Bonus che è stata con noi. Grazie. A voi. E ci sentiremo presto. Saluto il prossimo ospite con cui chiuderemo la trasmissione, il dottor Confalonieri è qua chiuso in studio con me, il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore, psicoanalista freudiano. Dottor Ballerini, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Io l'ho chiamata, scusi, perché c'è qualcosa che non so, non mi torna, ma un po'. Allora, io ho letto una cosa sui sogni di una ricerca inglese, dice che gli uomini sognano e invece le donne hanno gli incubi. Adesso ne parlavo col dottor Confalonieri prima di entrare in linea, lui dice: ma no, io proprio stanotte ho avuto un incubo pazzesco. E allora lui la metteva già in discussione. Noi abbiamo 2 minuti scarsi per commentarla. Lei, che tra l'altro è moderatore del nostro forum, dove i nostri ascoltatori hanno raccontato e continuano a raccontare, continuate a farlo, i loro sogni, che cosa ci può dire? Ma innanzitutto, se leggiamo bene la ricerca, vediamo che la ricerca dice che il 19% dei maschi ricorda gli incubi, mentre il 34% rispetto al 34% delle femmine. Quindi sì, innanzitutto distinguiamo, si parla del ricordo degli incubi, potrebbe darsi che le donne hanno una memoria migliore, oppure potremmo anche pensare che hanno meno motivi per rimuovere o censurare l'incubo, per cui effettivamente abbiamo anche, io stesso faccio tanti incubi, ce ne abbiamo anche il dottor Confalonieri, per cui innanzitutto lavoriamo su quello che il sogno, ricordiamo del sogno, per cui è sempre un dato riferito. Però i dati dello studio in generale non è che ci sorprendano poi tanto, uno perché dal punto di vista propriamente tecnico su come si costruisce un sogno, parla degli incubi rosa e dei sogni del mondo onirico femminile, insomma racconta che è popolato da familiari, si svolge spesso in ambiente casalingo, e se noi pensiamo come si costruisce un sogno che attinge al materiale recente, proprio quello che noi abbiamo fatto durante il giorno, è più facile che una donna abbia in mente la sua famiglia, non soltanto certo, perché anche se lavora poi deve pensarci lei, per cui questa non è una sorpresa. Ma se noi andiamo a vedere anche il forum che noi abbiamo, che è un osservatorio davvero spettacolare, dove i nostri ascoltatori poi diventano coscrittori e ci raccontano i loro sogni, anche il nostro forum rispecchia, è stato popolato ed è popolato da sogni. Dottor Confalonieri, allora noi rimandiamo, se siete curiosi, i nostri ascoltatori a visitare il nostro forum, ricordando che il dottor Ballerini continua a essere moderatore, quindi potete scrivere sogni belli, sogni brutti, incubi. Dottor Ballerini, io la saluto, la ringrazio, ci sentiamo presto. A presto allora. Buoni sogni, dottor Confalonieri, lei sogni, che ci vediamo venerdì. Sì, un altro grande sogno, incontrarci. Che le donne sognano di giorno e hanno gli incubi di notte, non gli sappiamo. Uomini il contrario. Non sappiamo, adesso noi ci salutiamo, io domani vi aspetto a questa casa, non è un albergo, a mezzogiorno. Intanto buona giornata da Nicoletta Carbone.